avanzo d'una stirpe infelice. De raccogliete voi. Cesso dell'ira il breve fuoco, sul nemico acciaro abbandonarmi vo. Per me la vita è orrendo peso, l'universo intero è un deserto. Per me senza Lucia di facci tuttavia splendi il castello, ma scarsa fu la notte al tripudio. Ingrata donna, mentre io mi struggo in disperato pianto, tu ridi esulti accanto al felice consorte. Tu delle gioie in seno, tu delle gioie in seno, io dell'amore, io dell'amore. Fra poco a me ricovero, darà negletto a vello una pietosa lagrima, non scenderà su quello. Tu pur dimentica quel marmo dispregiato, mai non passarvi, o Barbara, del tuo consorte alato. Rispetto almeno la ceneri di chi moria per te, rispetta almeno le ceneri di chi moria per te, mai non passarvi, tu lo dimentica, rispetta almeno chi muore per te, mai non passarvi, tu lo dimentica, rispetta almeno chi muore per te. Rispetta almeno le ceneri.